in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Corriere della Sera, dal Sole 24 Ore, lapsus. No, cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che ha un titolo diverso dagli altri, molto legato alle misure fiscali contenute nella manovra. Cuneo fiscale, platea allargata e per il 2021 un miliardo in più, quindi la soglia è stata alzata oltre i 35 mila euro e favorirebbe fino a 900 mila lavoratori. Si allarga però la forbice pubblico-privato. Trovate tutto a pagina 3, l'approfondimento è di Claudio Tucci. Il titolo principale però è la fotonotizia con sotto il titolo, è dedicato a un articolo di Isabella Bufacchi che ci racconta come l'industria automotive tedesca, che è naturalmente l'industria più importante della Germania ma anche in Europa, all'interno dell'automotive quella tedesca è la più importante, ha deciso di investire 75 miliardi di euro sull'elettrico. Dalla prima pagina vi segnalo anche una lunga intervista che poi trovate a pagina 8 di Marco Ferrando, che è il responsabile della sezione finanza del Sole 24 Ore, a Gianmaria Grosspietro, che ha ricoperto tantissimi incarichi nella sua vita manageriali e istituzionali e oggi è presidente di Intesa San Paolo. Il titolo dell'intervista: dalla sostenibilità una spinta in più per il Made in Italy, quindi la famosa svolta green che anche il nostro paese cercherà di fare, vedendola un po' come sta facendo il colosso cinese, come un'opportunità economica e di sviluppo. Il Corriere della Sera, eccolo, come tanti altri quotidiani, apre sugli aggiornamenti arrivati ieri mattina nella mattina italiana e quindi riportati dalla maggior parte dei quotidiani oggi, sull'abbattimento dell'aereo della linea aerea ucraina in Iran. E sapete che l'Iran ha ammesso di aver appunto abbattuto per errore quell'aereo, che era un aereo civile, sono morte 176 persone. Teheran e l'aereo, il missile era nostro, proteste in piazza. La fotonotizia però è dedicata alle manifestazioni di ieri a Parigi, perché ce ne sono state anche di non eccessivamente violente, ma ci sono stati anche episodi di violenza. Comunque la notizia, e lo racconta Stefano Montefiori a pagina 14, è che in effetti dopo oltre un mese di scioperi, il più lungo che la Francia ricordi, Macron, che aveva detto non mi muoverò di un centimetro, in realtà lui e il primo ministro Philippe hanno annunciato alcuni passi indietro, in particolare sulla famosa soglia dei 64 anni per andare in pensione. La Repubblica, che ieri apriva sul nuovo piano di Zingaretti per il nuovo PD, titola così: tanti sì al nuovo PD. Consensi all'idea di aprire il partito a sindaci e movimenti. Il sindaco di Firenze Nardella, per esempio, dice che ha rotto un tabù, mentre il sindaco di Milano Sala: serve una vera svolta. Le sardine, per quanto riguarda appunto il movimento delle sardine, prudenti ma apprezzano l'iniziativa. In prima pagina anche la notizia della missione dell'Iran. L'Iran ammette: il Boeing abbattuto però per errore. La Stampa invece si concentra sulla Libia, perché ha un'intervista al ministro degli esteri Luigi Di Maio. E quindi il titolo principale della Stampa: in Libia con i caschi blu. L'intervista al ministro degli esteri alla vigilia dell'incontro di Mosca tra Haftar, che accetta la tregua, e Sarraj. Un commento è del direttore della Stampa Maurizio Molinari: la sfida fra potenze su Tripoli. Quindi per la Stampa il tema, più che appunto in questo momento la crisi in Medio Oriente e le vicende che riguardano l'abbattimento dell'aereo da parte di Teheran, che ha ammesso di averlo abbattuto per sbaglio, il tema principale di politica estera è la Libia. Fotonotizia è una foto d'epoca che vede ritratti Vasco Rossi bambino e con i genitori, Giovanni Carlo Rossi e Novella Corsi, e la foto si riferisce al fatto che verrà data una medaglia d'onore al papà di Vasco Rossi, che fu internato dai nazisti, e c'è un reportage di Marinella Venegoni: ho 90 anni e zoppico, ma ora sono felice. L'emozione di Novella Rossi, mamma della rockstar naturalmente Vasco Rossi. Vi dicevo, il focus della stampa, l'importanza che dà la stampa, alla questione irachena e libica, pagine 2 e 3. A pagina 2 un reportage di Francesco Semprini da New York: Sarraj da Erdogan, il generale a Mosca verso la firma della tregua in Libia. Quindi potrebbe veramente concretizzarsi questa tregua in un paese che nell'ultimo mese ha visto un'escalation della guerra, che poi è una guerra di guerriglia in varie zone del paese. Se c'è un retroscena che invece raccontano Jacopo Jacoboni e Paolo Mastrolilli a pagina 3, passa per Roma il negoziato segreto fra Haftar e gli inviati di Trump. Sapete che Haftar è a Roma, ha poi incontrato l'ambasciatore Richard Norland, ambasciatore degli Stati Uniti per la Libia, con sede a Tunisi, perché sapete che l'Italia fece questa mossa di riaprire la sua ambasciata in Libia, molti altri paesi non l'hanno fatto, compreso gli Stati Uniti. Il Messaggero fa come la stampa, cioè si concentra sulla Libia, svolta a Roma, tregua in Libia, e poi c'è un aggiornamento sulla prima pagina del Messaggero sul delitto di Diabolik, lo ricorderete, Fabrizio Piscitelli, il pusher nonché ultra che è stato assassinato su una panchina in un parco di Roma. Secondo queste nuove rivelazioni, Diabolik c'è il movente, ucciso per le soffiate sui clan degli albanesi. Avvenire ha un'apertura completamente diversa. La fotonotizia è dedicata all'Iran, ma alle proteste che ci sono state in Iran, le proteste di piazza pacifiche contro Khamenei, perché il paese naturalmente è sotto shock per l'abbattimento per sbaglio di un aereo civile sul quale c'erano moltissimi iraniani, molti canadesi, E poi rappresentanti di altre nazionalità, ma principalmente iraniani e canadesi. Quindi la fotonotizia è questa. Poi c'è in prima pagina anche la notizia che viene dalla Francia: Macron cede alla protesta, pensioni alta alla riforma. Anche i cambiamenti proposti dall'attuale segretario Zingaretti al PD, ma l'apertura vera e propria è dedicata a un anniversario che non ho visto altrove, che è quello del terribile sisma che colpì Haiti 10 anni fa. Generazioni perdute ad Haiti dimenticata. I bambini sono le prime vittime della mancata ricostruzione, perché questa è la verità. Noi in Italia ne sappiamo qualcosa di mancate ricostruzioni dopo i terremoti e sappiamo quanto ancora ci sia da fare, anche se è una questione completamente assente dal dibattito politico, quanto ancora ci sia da fare in centro Italia per i terremoti degli ultimi anni. E lo stesso, a distanza di 10 anni dal terremoto in Libia, ad Haiti, sta accadendo appunto ad Haiti. E l'Avvenire dedica a questo l'articolo della sua inviata a Port-au-Prince, che è la capitale di Haiti, Lucia Capuzzi. Il Giornale: Bonaccini e C allo stadio con i soldi pubblici. C'è un esposto alla Consob, di cui il Giornale dà conto, per abbonamenti alla Juventus e biglietti di Champions pagati dalla partecipata ai politici del PD. Poi un intervento di Stefania Craxi, attualmente senatrice per Forza Italia, che dice: che tristezza Zingaretti che scappa da papà Bettino, perché nell'anniversario della morte di Bettino Craxi nessun Dem è andato ad Hammamet. Il Fatto Quotidiano, a proposito di campagna elettorale in Emilia-Romagna, dove si voterà il 26 di gennaio: Salvini cancella la Borgonzoni in 37 comizi su 42. A 2 settimane dal voto in Emilia-Romagna, Lucia sempre più oscurata, pochi comizi senza il capo. Lega in testa in altura, PD in città, Reggio in bilico. dalla prima pagina anche l'inizio di un articolo che poi trovate a pagina 17, molto bello, di Selvaggia Lucarelli, che sapete in particolare d'estate magari sta per molte settimane in paesi lontani. Ricordo il reportage dal Giappone, quindi ha conosciuto anche l'Australia in questi suoi viaggi, e racconta Kangaroo Island, addio koala, cosa resta in vita dopo gli incendi. Sapete che Kangaroo Island, che non è un'isola popolata soltanto da canguri e koala, anche da persone, ma è stata colpita e praticamente distrutta a metà dagli incendi che stanno distruggendo di fatto l'Australia da un mese e mezzo a questa parte. Tra l'altro, anche se ha piovuto un pochino, non basterà mai, e sta arrivando un'altra ondata di caldo, quindi non è una vicenda che possiamo considerare finita. Tra l'altro a Kangaroo Island ci sono anche, oltre appunto dicevo le persone, ma c'è anche lì foresta che va bruciata per sempre, bush che va bruciato per sempre, lo stesso accade in tantissime altre zone dell'Australia. E ci sono anche alcuni giornali che oggi parlano del fatto che nella vicina Nuova Zelanda si comincino a vedere non solo da lontano gli effetti degli incendi, ma cominci a esserci anche polvere, pulviscolo e cenere nell'aria. Quindi questo vi dà l'idea dell'eccezionalità di questa stagione degli incendi, perché il fatto stesso che gli australiani chiamino l'estate la stagione degli incendi ci fa capire che sono abituati e preparati, ma non a incendi di queste proporzioni. La verità: il governo degli asili gratis per tutti ha già finito i soldi per il bonus nidi, brutta sorpresa per tanti genitori. Uno dei pochi punti fermi del Conte Bis era stato l'aiuto alle famiglie, ma in questi giorni chi accede alle pagine personali del sito INPS trova il messaggio budget esaurito e la manovra non prevede fondi per rimediare. Sicuramente quello di annunciare delle misure senza avere le famose coperture, che poi in altri a corrente alternata possiamo dire così, vengono considerate una scusa per non fare le cose, ma se le coperture poi non ci sono, questo succede, che appunto le promesse misure annunciate, le promesse fatte non vengono mantenute. La fotonotizia è divisa in due, da una parte Donald Trump, dall'altra l'Ayatollah Khamenei, e poi trovate a pagina 7 un'analisi di Stefano Graziosi che è sicuramente molto interessante, perché per, se vogliamo dire, insomma, anche le sorprese della storia, adesso è cronaca, tra un po' sarà storia, con questa vicenda dell'Iran che in un clima di guerra abbatte un aereo civile, e con Trump che saggiamente non approfitta, ma non c'è bisogno di approfittarne, il fatto è talmente clamoroso in sé, e quindi il sta zitto su questo e dice, e quindi Stefano Graziosi intitola la sua analisi: a 10 giorni dal blitz l'Iran si è fregato da solo. Libero: la polizia senza soldi, gli agenti pagano i pasti ai clandestini. Non esiste un fondo nazionale per le spese di sostentamento degli immigrati da espellere, a loro provvedono le pattuglie che li hanno in carico, che poi faticano a farsi rimborsare. Questa storia tremenda la racconta Fausto Carioti poi a pagina 3 di Libero. Noi ci lasciamo un attimo, sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo. In primo piano. Buongiorno, ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349-238-6666, WhatsApp o SMS. E l'ascoltatore che dice: Iran in meno di una settimana ha ammesso ogni responsabilità riguardo l'aereo abbattuto, noi dopo 40 anni non sappiamo ancora cosa sia successo a Ustica. Vero, verissimo, e possiamo anche aggiungere la tragedia del Cermis, ricorderete, quando l'aereo con i militari americani a bordo fecero un volo a quota assolutamente non consentita, perché l'avevano trovato poi per stessa ammissione di alcuni una cosa divertente, lo faceva anche Tom Cruise in un film, ma era un film, quello di fare delle cose non consentite, in quel caso era il volo raso torre di controllo, che faceva sì che il comandante della torre di controllo si rovesciasse il caffè. In quel caso invece fu tranciata una fune della funivia e morirono delle persone. persone, anche in quel caso non fu pronta la missione di responsabilità da parte degli americani. Quindi è vero, questa missione di responsabilità, anche se molti analisti dicono che non era possibile negare, perché comunque i danni che fa un missile a un aereo sono evidenti, sarebbero stati evidenti dalle scatole nere, c'erano anche dei filmati circolati in rete, quindi è un caso a sé, però comunque questo dato di fatto c'è, che l'Iran ha ammesso l'errore ovviamente davanti al mondo. Eravamo alle prime pagine, vi segnalo anche quella di Libero, il titolo ve l'ho segnalato: la polizia senza soldi, gli agenti pagano i pasti ai clandestini. Poi in prima pagina c'è un articolo di Sergio Farina e uno di Pietro Senaldi che dimostra ancora una volta l'ossessione di Libero per Greta, perché Renato Farina se la prende con l'articolo che Walter Veltroni ha scritto ieri di allarme per il cambiamento climatico che secondo la maggior parte degli esperti ha tanti effetti, uno dei quali sono gli incendi in Australia che come concausa hanno i cambiamenti climatici. Scrive Renato Farina: tutti siamo addolorati per l'Australia, ma Walter Veltroni di più, non c'è dubbio, quindi sempre una presa in giro, batte tutti, Greta Thunberg gli fa un baffo. E poi prosegue in questa analisi dell'articolo di Walter Veltroni apparso ieri sul Corriere della Sera. E invece Pietro Senaldi ci racconta che martedì, quindi tra due giorni, Libero sarà di nuovo processo all'ordine dei giornalisti per i vari titoli, li ricorderete, li ricorda anche lui con un certo orgoglio. Non sono piaciuti i nostri titoli su Greta, torna Greta, la rompiballe va dal Papa, e sull'impennata in Italia degli omosessuali che fanno outing, che va in controtendenza rispetto alla decrescita dell'economia, cala il PIL ma aumentano i gay. Quindi titoli che appunto sono stati considerati sanzionabili dall'ordine dei giornalisti, che ha aperto un processo. Secondo Pietro Senaldi, Libero di nuovo processo perché la pensa a modo suo. Ma mi ha colpito un passaggio di Pietro Senaldi, perché dice a un certo punto: l'opinione pubblica è mutevole. Quando Libero scrisse che la Raggi era una patata bollente per il Movimento 5 Stelle, l'Argento una sciagura per la causa femminile, Greta un personaggio montato ad arte, sembravamo blasfemi. Oggi sono punti di vista diventati maggioritari. Ok, apprendiamo da Pietro Senaldi che la maggior parte delle persone pensano che Greta sia un personaggio montato ad arte. Poi conclude dicendo: nel 2020 più del 50% delle notizie che circoleranno in rete sarà falsa. Questa è l'emergenza per l'ordine dei giornalisti, non stabilire se la Raggi sia un buon sindaco oppure una patata bollita. Il problema è che l'ordine dei giornalisti, specie quello italiano, non ha alcun potere sul 50% delle notizie false che ci sono in rete, che nella maggior parte dei casi non viene diffusa da giornalisti, quindi non si capisce che cosa c'entri l'ordine dei giornalisti italiano per di più. Comunque, la prima pagina del Manifesto, orrore umano, la foto è quella di alcuni familiari delle vittime dell'aereo abbattuto da Teheran, per errore che accendono delle candele. Dopo aver negato per giorni, l'Iran ammette l'aereo ucraino colpito da un missile, tristezza e rabbia a Teheran con nuove proposte all'università. Tra i 176 morti, vittime di un errore umano, oltre che della crisi innescata con l'omicidio di Soleimani, molti erano studenti. Il Giorno, una bella foto di Noemi Staiano, la bambina di 4 anni che era stata colpita da una sorta di pallottola vagante a Napoli, era stata anche in fin di vita, i medici sono riusciti a salvarle il polmone, quindi è sopravvissuta a questo proiettile che la colpì ai polmoni, e ieri ospite speciale della partita Lazio-Napoli. La piccola ferita Napoli in un agguato di camorra torna a sorridere, è la star all'Olimpico. Però il titolo principale è un'inchiesta, è un sondaggio del Giorno: Google ci spia, italiani spaventati, l'82% ignora che ogni nostro spostamento è tracciato, 9 su 10 però pensano che sia una deriva pericolosa. E poi vi segnalo la prima pagina del Secolo XIX perché riprende questo tema che naturalmente per Genova e la Liguria è importantissimo, che è quello della sicurezza e dei controlli fatti da autostrade. Ricordiamolo sempre, il 14 agosto del 2018 crollò il Ponte Morandi, che era gestito da autostrade, in un tratto gestito da autostrade, che è la società che gestisce oltre il 90% della rete di autostrade nel nostro paese, è controllata da Atlantia, che è una società quotata i cui soci di maggioranza sono i Benetton. gallerie l'ultimatum del ministero dopo 13 anni di lavori mai eseguiti. Dall'illuminazione ai sistemi antincendio, sanzioni se non partiranno i cantieri. Tra l'altro ieri, ennesimo fatto di cronaca, paura a Bergamo, crollo di intonaco su una provinciale. Ma andiamo alle pagine interne dei quotidiani e torniamo sul Sole 24 Ore. Vi segnalo in particolare la pagina 6, l'inchiesta la domenica, le scelte degli studenti, tema di cui si è parlato tantissimo anche già qui a Radio 24 con lo speciale di Maria Piera Ceci, e poi naturalmente sul sito trovate i podcast della serie Verso il Futuro, tutti dedicati alla scuola. Tra l'altro all'interno del programma 2 di Denari sono in calendario qui a Radio 24 altri approfondimenti sulla scuola. Poi c'è lo speciale sul Sole 24 Ore, un ebook gratuito, scaricabile gratuitamente, e questa pagina di Eugenio Bruno e Claudio Tucci oggi, pagina 6, iscrizioni, ecco le scuole passepartout per il lavoro. C'è anche un breve intervento di Lucia Azzolina, neo ministro della pubblica amministrazione, dopo lo sdoppiamento del Ministero per l'istruzione e lo sviluppo e la ricerca universitaria, e l'università e la ricerca, come sapete, quindi la scuola è ora di Lucia Azzolina e invece l'università e la ricerca sono in un altro ministero. L'intervento si intitola Non ci sono istituti di serie A e B, e poi vi segnalo però su Repubblica una inchiesta su come Lucia Azzolina abbia copiato alcuni brani della sua tesi per essere ammessa poi a un corso universitario. Quindi insomma un ministro che forse dovrebbe ancora dare qualche spiegazione sulle sue qualifiche, ma vedremo se questa inchiesta fatta da Repubblica poi avrà degli sviluppi. Vi dicevo l'intervista a Gianmaria Grospietro, pagina 8 di Marco Ferrando, dalla svolta sostenibile spinta al Made in Italy, Gianmaria Grospietro, numero 1 di Intesa San Paolo. La sua formazione è quella di economista industriale, ha lavorato in molte aziende e in molte banche. Poi l'approfondimento sugli investimenti nell'auto elettrica, mobilità elettrica, l'auto tedesca investirà 75 miliardi in 5 anni, trovate tutto a pagina 9 con questo approfondimento di Isabella Bufacchi, che è corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Per la pagina sport e business, questa settimana si intreccia un po' con la finanza, il lungo articolo di Marcello Frisone: Nike e Adidas volano al massimo storico in borsa. Il settore continua a svilupparsi. Secondo il McKinsey Global Fashion Index, nel 2020 la crescita delle vendite nell'abbigliamento tradizionale è prevista tra il 3,5 e il 4,5%, mentre per capi sportivi e scarpe da ginnastica tra il 6 e il 7%. E a proposito di moda, di capi sportivi, la pagina 17 all'interno della sezione Lifestyle è dedicata alle sfilate, che sono le sfilate della moda uomo, che sono in corso a Milano. Lo dico ancora una volta, lo segnalo perché le sfilate sono la punta dell'iceberg di quel sistema del tessile moda abbigliamento che è la seconda industria manifatturiera del nostro paese. Ieri ha sfilato Emporio Armani, Angelo Flaccavento ci racconta, Emporio Armani plasma un nuovo formale. Ma la copertina della sezione Lifestyle è di Chiara Beghelli ed è dedicata a quello che con un gioco di parole viene definito i ritorni di fiamma, ed è il business delle candele tra rito e design, una vera passione domestica confermata dai numeri. Il giro d'affari globale è di 3,5 miliardi di dollari e coinvolge l'Italia, dove ci sono antiche cellerie e giovani atelier. E a proposito di verde, di economia verde, di svolte verdi, Enrico Marro a pagina 16 ci racconta Rotterdam, all'avanguardia circolare è già di casa. L'export più grande del mondo oggi sfoggia uno skyline degno di Manhattan e le migliori start-up sostenibili, dal latte prodotto nella fattoria galleggiante, il cui pascolo è il campo da golf, ai funghi coltivati su fondi di caffè. Matteo Renzi anche questa domenica decide di dare un'intervista, come domenica scorsa. Questa settimana però lo fa al Corriere, Maria Teresa Meli, l'intervista: se fanno come Corbyn ci aprono un'autostrada, il governo cambi passo. E il riferimento è alle scelte del leader del partito Labour britannico, che secondo Matteo Renzi appunto sono state molto sbagliate. Il leader di Italia Viva: dopo il voto in Emilia tireremo le somme. Poi c'è un'intervista di Mario Monti, sempre al Corriere della Sera, fatta da Lorenzo Silvia. Qui il virgolettato è: spero che Macron non ceda perché ha idee avanzate e l'Europa ha bisogno di lui. Il riferimento è naturalmente all'evoluzione delle trattative sulla riforma del sistema pensionistico che Macron aveva annunciato nella sua campagna elettorale ormai più di 2 anni fa. Sta cercando di portare avanti, mandando diciamo avanti il suo primo ministro Philippe, però abbiamo visto adesso c'è una parziale marcia indietro che secondo Monti non è una buona notizia. Ci lasciamo un attimo per una pausa sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli e grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici che stanno mandando messaggi al 349-238-6666, non tutti positivi, ma pazienza. Però in particolare all'ascoltatore che dice che noia questa signora e mette le due faccine, una tutta scontenta, c'è vicino la pistola, ma a me mette tristezza che lei usi gli emoticon in questo modo. Però anziché appunto anche soltanto pensare figurativamente di spararsi perché mi trova noiosa, la soluzione c'è, la conosce. Ma torniamo alle pagine interne dei quotidiani. C'è un'intervista interessante a Stefano Buffagni, 36 anni, 5 Stelle, viceministro dello sviluppo economico. Udite udite, un inizio di autocritica da parte di un esponente del Movimento 5 Stelle che dice: avvoltoi su Di Maio, abbiamo peccato di inesperienza, troppi inaffidabili tra di noi. Quando Matteo Pucciarelli gli chiede qual è stato il punto debole del 5 Stelle al governo, Buffagni risponde: a volte l'ansia di annunci. E Pucciarelli gli dice: tipo la famosa abolizione della povertà. E Buffagni risponde: lì stavamo portando avanti una battaglia giusta e necessaria ancora oggi, ma con quella definizione alla fine è rimasto solo un messaggio eccessivo e sbagliato, mentre lo strumento è importante, utile e i dati lo confermano. Sempre dalle pagine di Repubblica vi segnalo un'elezione che è passata un po' così sotto silenzio, ma che in realtà è importante nello scacchiere geopolitico asiatico: le elezioni a Taiwan. La sfida alla Cina di Lady Tsai. Abbiamo scelto la libertà. L'articolo di Filippo Santelli, inviato a Taipei, appunto dedicato a Tsai Ing-wen, leader del Partito Democratico Progressista che ha vinto queste elezioni a Taiwan. Sono sicura che gli amici di Hong Kong saranno felici del nostro paese. Ringrazio i giovani che hanno votato per la prima volta. Altro virgolettato: i risultati di queste elezioni hanno reso chiara una risposta. Pechino deve abbandonare la minaccia dell'uso della forza. E poi, questo è un articolo che comunque fa riflettere, ma anche ci fa capire quanto profondi siano i problemi dell'Italia in fatto di giustizia, anche amministrativa. Sergio Rizzo, a pagina 33, appalti, 3 ricorsi al giorno, ecco come si bloccano le gare. Chi perde cerca la rivincita al TAR e al Consiglio di Stato, cioè i 2 gradi della giustizia amministrativa, con motivazioni spesso pretestuose, come la mancanza della firma in calce. L'intervista a Di Maio ve la lascio a pagina 2, a pagina 5 della Stampa, Ilaria Lombardo, intitolata Una missione in Libia con i caschi blu, presto un trilaterale Roma-Mosca-Ankara. Speriamo che non sia un wishful thinking. In questi pochi minuti che ci restano andiamo ai supplementi della domenica. Cominciamo sempre, come sempre, dal breviario di Gianfranco Ravasi che si intitola La vita, e la citazione è di Seneca. Una gran parte della vita ci sfugge nel fare il male, la maggior parte nel non fare nulla, tutta quanta nel fare altro da quello che dovremmo. È vero, era piuttosto pessimista il filosofo e scrittore latino Seneca, vissuto negli anni di gestazione e nascita del cristianesimo. Morirà suicida nel 65 per evitare l'infamia della condanna a morte decretata da Nerone. Nel IV secolo si costruirà persino un epistolario apocrifo tra lui e San Paolo. La riflessione amara che abbiamo raccolto da un altro suo epistolario, questo autentico, con l'amico Lucilio, ha comunque una verità indiscutibile per molte persone, soprattutto nella terza tipologia della trilogia esistenziale tratteggiata dal pensatore pagano. Che non poco del nostro tempo sia votato al male, all'odio, al vizio, è una confessione che dovremmo fare, obbedienti alla voce della coscienza. Così pure è innegabile lo scialo di ore, giorni e mesi nel non compiere nulla di significativo, trascinati dalla deriva della superiorità, della superficialità e della vacuità interiore. Ma è soprattutto l'ultima nota di Seneca a colpirci. È il tradimento della nostra vocazione, la dispersione delle nostre doti, la scelta della via più facile e banale, la rinuncia all'impegno per i valori e gli ideali. Raccogliamo allora l'appello di una lettera autentica di San Paolo. Finché abbiamo tempo, operiamo il bene. La copertina vera e propria è di Salvatore Settis, dedicata, si intitola così, La Galleria dei Marmi dei Principi Torlonia, perché è la storia dell'ultima, ci racconta la storia dell'ultima raccolta aristocratica di Roma fondata nel 1875, che sarà oggetto in primavera di una spettacolare mostra in Campidoglio e successivamente verrà aperta al pubblico in modo permanente. Poi vi segnalo di un articolo, di un'anticipazione dell'intervento di Silvana Greco, il contributo che Silvana Greco ha dato a questo libro, La pietra nel ricordo, giornata della memoria, i primi 20 anni, sono 20 anni che si celebra appunto la giornata della memoria, è una raccolta di tutti gli scritti di Giulio Busi, lo pubblica Il Sole 24 Ore. L'anticipazione pubblicata oggi sul domenicale del Sole 24 Ore dell'intervento di Silvana Greco, così Liliana discese agli infari, perché questa raccolta appunto degli articoli di Giulio Busi apparsi sulla domenica dedicati alla cultura ebraica, al tema della memoria, hanno questo contributo di Silvana Greco sulle terribili vicende vissute dalla senatrice Liliana Segre. Poi vi segnalo l'approfondimento su Parma, capitale italiana della cultura, un 2020 di musica, teatro, cinema, arte, discussioni sul futuro e recuperi ambientali, il vasto programma di manifestazioni ed eventi raccolti nel claim La cultura batte il tempo. Cristina Battocletti racconta invece questo nuovo film di Greta Gerwig tratto dal libro Le piccole donne di Louisa May Alcott, Piccole donne alla riscossa. La lettura, il supplemento settimanale del Corriere della Sera dedicato alla cultura, affida come sempre la copertina a un artista, questa settimana è Paola Pezzi, e dall'interno vi segnalo due approfondimenti, uno di Adriano Favole, sull'antropologia, è intitolato Essere ospitali, un legame debole rafforza le società. Popoli come i Maori, i Sinti e gli Inuit non chiedono al forestiero di ripudiare la sua appartenenza, né gli concedono facilmente la cittadinanza, ma il diverso interessa perché allarga gli scambi e le relazioni. Chi pensa di bastare a se stesso esclude gli estranei. Poi questa storia bellissima dal Giappone la racconta Laura Imai Messina, e poi c'è anche la recensione del libro di Laura Imai Messina, Quel che affidiamo al vento, la fa Anna Chiara Sacchi, ma Laura Imai Messina appunto ci racconta Telefonate al vento. C'è un'antica cabina su un monte del Giappone e nella cabina c'è un antico telefono. Salgono qui i familiari dei morti per parlare con i loro cari, le vittime dello tsunami del 2011, ma non solo, vengono anche dagli Stati Uniti e dall'Italia. C'è un guardiano e Laura Imai Messina lo ha incontrato, la trovo veramente una storia bellissima, quasi una favola per chi non vuole vederci un significato necessariamente religioso o spirituale. Robinson, il supplemento settimanale della Repubblica, in edicola sabato, ma poi resta in edicola tutta la settimana, dedica la copertina a Daniele Del Giudice con tanti articoli all'interno. La stanza di Del Giudice ha scritto di vita, di letterature, di manie, macchine volanti e pittura, poi la sua mente è volata via, nel senso che appunto ha una malattia di quelle neurodegenerative, e quindi in questo modo poetico Ernesto Franco fuoco, dice, la sua mente è volata via. Vi segnalo anche, temo sia l'ultima segnalazione che ho tempo di farvi, una bella intervista di Arianna Finos a Werner Herzog, Cattivo per scelta. Il 19 gennaio arriva in sala il suo film su Gorbaciov, intanto si diverte a interpretare ruoli oscuri come il cliente nella nuova serie televisiva tratta da Star Wars, e dice: il cinema per me oggi è un modo di vivere, la paura non rientra nel mio vocabolario. Con questo vi saluto, vi auguro una buona domenica, ringrazio Peter Bescapè in regia e tutti gli ascoltatori per averci ascoltato o per aver mandato messaggi.